Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantani da in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Siamo tornati da Pitti, io e Pardo che tra poco arriva via telefono. È tutta la settimana che parliamo dell'Inter, non possiamo esimerci neanche oggi perché la cronaca ci porta lì con un fallimento della squadra di Mazzarri che è uscita ieri sera contro l'Udinese. Poi parliamo anche di altro però, se vi piace. 800240024, perché è stata una grande notte per il basket italiano con l'Olimpia, che ha festeggiato 78 anni di vita, Olimpia Milano, battendo l'Olympiakos, bicampione d'Europa, non in modo banale, di 30 punti. Dopo arriverà anche Dan Peterson. Intanto io saluto e ringrazio, oggi per me è un giorno speciale perché c'è il mio maestro Marino Bartoletti, uomo a cui questa radio deve molto. Ciao. Mi fai sentire vecchio, Carlo. Buongiorno. Ma a te, devo scherzare. Radio 24, anche a Pierluigi che mi sembra di intuire che hai collegato. Eccolo qui. Ciao Pardo. Tutto bene? Benissimo. Ciao giovani, sono a disposizione. Giovani, una volta. Senti, io approfitto subito, Marino Bartoletti, della tua conoscenza, onniscienza direi, in materia di musica italiana e del suo contenitore storico che è il Festival di Sanremo. Per parlare di Inter, sceglimene una delle tre. Si può dare di più? Fiumi di parole o sarà quel che sarà? Opto per la più affettuosa, che si può dare di più, ma è quella che meno rappresenta la mia idea in questo momento. È più vicina a fiumi di parole, veramente a fiumi di parole, di chiacchiere, alle quali anche Mazzarri sta dando un contributo determinante. Sì. Da dove cominciamo? Dimmi tu. Dimmi, si può dare di più o fiumi di parole? Ah, guarda, facciamoci può dare di più ostentatamente. Va perché bene. Comunque il cuore mi ispira a questa forma di tolleranza. Facciamo i bravi allora. Facciamo i bravi. Si può dare di più perché dentro di noi si può usare di più senza essere eroi come fai. Siete un po' lontani, diciamo molto lontani dalla Juventus e fuori dalla Coppa Italia, quanto è difficile anche per lei gestire tutta questa situazione? Che... Perché chiave, cioè per quello che c'entra la Juventus, cioè, no, noi abbiamo fatto siamo stati chiari, io e la società dal primo giorno, che quest'anno si dovevano fare tante cose e le stiamo facendo al meglio. Poi è chiaro, in Coppa Italia ho detto si doveva provare ad andare avanti il più possibile anche per testare i giocatori che sono meno impiegati. Oggi è andata male. Allora, Pierluigi Pardo, sei d'accordo con la scelta di Marino? Ma io penso che la scelta appunto sia affettuosa, ma in realtà ci ha detto che è un po' l'esatto contrario, che si possa dare di più, questo è evidente. Nel senso che nelle ultime partite... di meno è difficile. Di meno è difficile, nelle ultime partite si è dato poco. Cioè, questa squadra credo sia migliore di quella che abbiamo visto nelle ultime 6-7 partite, probabilmente era peggiore di quella che si era vista in preda all'entusiasmo nelle prime giornate, ma credo che la cifra complessiva sia una via di mezzo di queste due situazioni. Sì, ieri è stato chiesto a Mazzarri, è stato detto a Mazzarri da un sacco di tempo, da moltissimi anni l'Inter non usciva a questa fase a Coppa Italia e lui subito ha messo le mani avanti. Beh, però è anche un sacco di anni che non si facevano le coppe europee. Marino, io credo che la situazione stia diventando un po' imbarazzante, sai, anche per Mazzarri, che oltre al grande classico del lamento sulle questioni arbitrali, secondo me sta un po' soffrendo l'assenza di interlocutori. Imbarazzante anche in questo caso, è un aggettivo scelto con molto affetto. Tu ricorderai che si può dare di più arrivò prima nel Festival di Sanremo del 1987. Mm. Sai che eravamo terzi in quel festival? Nostalgia canaglia. Ah, sì. Beh, qui di nostalgia sono in braccio della scelta di Mourinho, forse anche di Moratti, lasciando perdere i vari campioni che sono passati di lì. Adesso mi sembra una squadra fatta di ricordi, cioè Milito, Cambiasso eccetera eccetera, perché sono poco più che ricordi forse a questo punto, soprattutto se proiettati sul futuro, è fatta di incognite. Guarda, io non ho capito cosa vuol fare questa Inter da grande, sinceramente in questo momento è a metà di un guado, uso il tuo aggettivo, che è molto imbarazzante, perché effettivamente non c'è un disegno, non c'è un progetto, forse non c'è neanche una società in attesa che arrivi questa società. Ho la sensazione che Tohir ci stia prendendo tutti per il culo, si può dire, prendendo per Radio 24, perché ancora non ho capito qual è l'impostazione aziendale, qual è la strategia, qual è il progetto che sta dando a questa società. È vero, ha impegnato dei capitali straordinari che sono 300 milioni trattabili, poi si è parlato di tutto, però qualche piccolo gesto, non dico di buona volontà, ma quantomeno acquistare, quanto costa, 10 euro una bussola, sì, per orientare in qualche modo la speranza, il progetto, la strategia, le ambizioni di questa società, da qualche parte dobbiamo vederlo sinceramente. Poi dimmi tu da che parte cominciamo, se non, visto che ieri hanno presentato l'album delle figurine Panini, sì, padre e maestro, lui si di tutti noi ed assieme il grande almanacco. L'almanacco dice che la vituperata Inter di Stramaccioni alla fine della 18ª giornata dello scorso anno era serenamente terza, 35 punti davanti al Napoli e al pari della Fiorentina. Allora, che è accaduto in questa stagione dove pure si è fatto un mercato che tutti noi, perché dobbiamo essere onesti, non abbiamo ritenuto infame, perché comunque qualche piccola crescita, qualche piccolo tentativo di miglioramento c'era stato. E allora che accade? Dammi tu la scaletta, Mazzarri. Mazzarri posso dire in che parte. Sono su Wikipedia, o Wikipedia, fate voi, sì, e in quel festival dell'87 ho trovato alla 21ª posizione il Garibaldi innamorato. Garibaldi è il fratello di Tohir, e secondo me Tohir c'entra con questa storia, per carità, non è colpa sua, non è che porti sfighe come qualcuno ha maliziosamente fatto pensare, visto che ha vinto solo una partita. No, Piero, però Marino ha ragione, cioè adesso dice, ma forse arriva a fine gennaio, ma forse a metà febbraio, è capito, stato sveglio fino alle 5 di notte a guardare l'Inter che perde, ma cioè ti pare una proprietà questa? No, non mi pare una proprietà questa, insomma, è evidente, diciamo che servirebbe come minimo un plenipotenziario di Tohir, possibilmente riconoscibile, possibilmente autorevole, pronto qui a fare la società, mentre legittimamente Tohir da Giacarta la osserva e cura il resto dei suoi interessi. Però ora, poi detto questo, io non credo che l'Inter in questo momento non stia brillando per colpa di Tohir, perché non c'è la società. Io credo che in realtà si sia sgonfiato l'effetto Mazzarri, che è stato il migliore acquisto dell'estate scorsa, l'unico vero acquisto importante, e adesso vengono fuori i nodi di una squadra che comunque non è cambiata più di tanto dal punto di vista della qualità rispetto all'anno scorso. Beh, però permettimi Carlo, sì, io non ho bisogno di Wikipedia per ricordare la classifica di quell'anno, mi sembra che alle prime 5 arrivò il sognatore di Peppino Di Canio. Grandissimo! Allora, you can say I'm a dreamer, but not the only one, ha detto qualcuno di più importante, sì, di noi. Allora, spieghiamoci, ha ragione quello che dice Pierre, effettivamente Mazzarri è stato un buon acquisto, ci abbiamo creduto tutti, non dobbiamo essere ipocriti nel dire che comunque non pensavamo che anche quello fosse stato un miglioramento. Io sono arrivato a dire che lo era sia per il Napoli che per l'Inter, nel senso che il Napoli perdeva un grande allenatore leggermente demotivato e trovava un grande allenatore di grande esperienza internazionale, e l'Inter trovava quel grande motivatore che probabilmente si era perduto nei meandri del dopo Mourinho. Però a questo punto veramente cosa è successo? Sei sicuro, Pierluigi, che la società non c'entri? Sei sicuro che i giocatori e tutto l'entourage, non avendo una guida sicura, non avendo un capitano, un comandante, una destinazione, una meta, sappia benissimo da che parte andare? Questo è un Inter che in termini ippici è un cavallo in rottura prolungata, e lo dico da driver. Sì, quando un cavallo in rottura prolungata, ti assicuro che può accadere di tutto, anche che faccia cadere il driver che c'è sopra, oltre che non raccogliere i risultati che potenzialmente merita. Marino, tu sai, hai messo le mani su questo palinsesto, l'hai inchiostrato, tu sai cosa c'è adesso? Il traffico. Ricordo bene la pubblicità, credo di averlo fatto il palinsesto. Bravo, esatto. E temo di averti anche assunto. Vabbè, questo è imperdonabile. Di cui ti sei pentito poi per tutto il resto di questi 14 anni. Vai. Traffico, Marino, stai con noi ancora 5 minuti. Tutti convocati. Aspetto mille scuse, come sempre da te. Tanto, se si vuole fare il confronto fra l'Inter e il Milan, a questo punto me l'ha fatto la domanda, io ci devo entrare, io di solito guardo solo a casa mia. Non ci scordiamo che l'Inter l'anno scorso, purtroppo sappiamo com'è finita l'annata, quanti punti ha fatto questo gruppo che poi io ho ereditato nel girone di ritorno soprattutto, perché se avesse fatto i punti che ha fatto il girone d'andata, di sicuro non ci sarei probabilmente stato io all'Inter, perché ci sarebbe stato l'allenatore che c'era. Dovevamo metterla questa, eh? Allora, eravamo rimasti in sospeso con un paio di domande che sono nell'aria, lanciate da Marino Bartoletti. Pierluigi Pardo, secondo me, la società è il punto di partenza di ogni storia sportiva. E, si può anche passare dalla musica al cinema e citare tutti gli uomini del presidente. Dove sono sti uomini? Io guarda che ho già Wikipedia del Festival di Sanremo del 97, ci sono delle cose fantastiche, tipo confusa e felice, però tanto felice l'Inter non è. Vabbè, e dimmi che non vuoi morire, cantato da Patti Pravo, Di Vasco e Curreri. Vabbè, mi sono fatto prendere, Marino mi ha contagiato. E la società, no, ma sicuramente la società ha delle responsabilità, non ci sono dubbi, e dobbiamo dire che sicuramente l'approccio preso da Toir è un approccio molto, molto prudente, molto tirato dal punto di vista economico, insomma. Chi si aspettava un investimento subito importante, non soltanto della copertura dei debiti, fino a questo momento è stato completamente smentito. La rottura prolungata è evidente, non dimentichiamoci quello che è successo l'anno scorso negli ultimi mesi di Stramaccioni. Io penso che l'unico momento di reazione c'è stato all'inizio di questa stagione, perché evidentemente Mazzarri è partito bene, questo ha ingenerato dell'entusiasmo che ha portato la squadra a crescere e anche a giocare bene in qualche partita. Oggi mi sembra che veramente la bussola non ci sia, e mi sembra difficile sinceramente oggi che l'Inter possa, se non fa degli investimenti di mercato di un certo tipo, crescere molto dalla posizione in classifica che ha adesso. Magari può superare il Verona o comunque un'altra squadra, arrivare quinto, ma vediamo. Beh, poi se vuoi fare la proprietà transitiva fra Udinese Verona 1-3 dell'altro giorno e Udinese Inter 1-0, perché dal calcio non è una scienza esatta, no? Però la differenza sarà abbastanza enorme. Marino, io chiuserei sull'Inter con Gene Gnocchi. Proseguono i coming out, Toir, non sono indonesiano e non ho un euro. Gazzetta dello Sport di oggi. Però allora Pier, perché dimmi che non vuoi morire, non è dell'87, eh? Ah no, del 97. È del 97. Sì, 90... sì, no, scusate, aspetti, è del 97. Ah, ok. No, no, vabbè, io sono qua, ho Wikipedia davanti, per cui nel caso scarico ogni responsabilità, non ci mancherebbe altro. Comunque, del 97, vince più di parole e del festival dell'87. Cioè, io guarda, resto convinto che Mazzarri sia un ottimo allenatore. Posso permettermi, non dico una parolaccia, però una cosa un po' icastica. E a Mazzarri dico: torna a bordo, cazzo. Riprendi in mano questa squadra, lascia stare gli arbitri. Io l'altra sera sono andato a vedere incautamente Lazio-Inter. Come può un allenatore intelligente, preparato come Mazzarri, percorso netto, perché non è mai stato esonerato, dire che le sfortune di quella partita sono figlie di un errore dell'arbitro, errore tra l'altro palese? Ha sempre fatto così, Marino. Come fa? Ma a Ranocchia cosa gli ha detto dopo la fine della partita? Chi l'ha comprato, chi l'ha corrotto Ranocchia per far fare quel gol bellissimo a Klose? Chi ha corrotto e comprato gli altri giocatori dell'Inter che non c'erano, che non avevano le gambe l'altra sera, soprattutto quelli che hanno festeggiato Asado l'ultimo dell'anno? Ecco, Asado è l'aggettivo giusto per questa Inter, è grigliata, è bollita. Allora Mazzarri, forza, un po' d'orgoglio, perché altrimenti l'allenatore dell'Inter, della prima Inter di Toir, non sarai tu. Io mi sto convincendo anche di questo, penso un po' cosa ti, penso sì, un po' cosa sicuro, ti dico. Sicuro, anche perché all'inizio, allora, i rumors, o più semplicemente le indiscrezioni, diciamolo in italiano, quando è arrivato Toir parlavano già della voglia di cercare qualcosa di esotico in panchina, e si parlava molto di De Boer. È chiaro che, insomma, è vero che la classifica lui ce l'ha, non è che non lo sa che con Mazzarri prima del suo arrivo comunque l'Inter avesse fatto buone cose, però insomma da quando lui è arrivato questa gestione non gli ha dato grandi soldi. E domenica c'è Genoa-Inter, dall'altra parte c'è un allenatore che a Milano non hanno avuto tempo di conoscere bene. Quello a cui non hanno comprato Palacio. Quello esatto. Che il presidente però non ha voluto, e quindi era stato esautorato ancora prima di cominciare, se vogliamo dirla tutta. Marino, in un campionato già chiuso dalla Juventus, almeno secondo me, diventano importanti i temi collaterali. Mazzarri dice di voler usare quel che resta della stagione dell'Inter per valutare i giocatori per un futuro che non si sa bene se sarà suo. Cosa che però dovrà fare anche Prandelli, perché, specie al capitolo attaccanti, un anno fa di questi tempi avevamo El Shaarawy che sembrava un fenomeno, Balotelli, abbiamo detto questa è la coppia del futuro per i prossimi 8 anni, per i prossimi 3 mondiali, compreso quello del Qatar che magari si gioca d'inverno, e fino a una settimana fa avevamo Giuseppe Rossi, adesso ci resta Balotelli. Guarda, i 10 mondiali vissuti sul campo dall'alto della mia anagrafe appesantita. mi consentono di dire che tutto quello che accade a gennaio è assolutamente insignificante, sì, per quello che accadrà a maggio, giugno e soprattutto a luglio. Quindi tranquilli ragazzi, può succedere veramente di tutto. Mi preoccuperei se tutte queste persone, questi giovani che hai nominato in questo momento fossero in forma. Credimi, anzi, mi tranquillizza di più il contrario. Inutile che ricordi gli Schillaci recuperati all'ultimo momento, i Boninsegna recuperati all'ultimo momento, le intuizioni degli ultimi momenti. Lasciamolo correre, scorrere questo campionato. Io su Prandelli ripongo una grande fiducia, potrei anche cavarmela con una battuta e dire meno male che la federazione non l'ha licenziato come ha fatto Lotito, visto che sì, più o meno sa che non sarà l'allenatore della nazionale dopo i mondiali. Lasciamolo lavorare, siamo nelle mani giuste e secondo me tutto quello che ci porterà la primavera sarà assolutamente inedito rispetto a quello che ci sta dando l'inverno. Senti maestro, io prima di salutarti voglio, ho altre due considerazioni da sottoporti. Una riguarda un altro CT che è quello del ciclismo, wow, cioè Davide Cassani. Dopo Paolo Bettini passa dal microfono all'ammiraglia, al microfono bravissimo, penso che possa essere anche su un'ammiraglia. E l'altro è un compleanno che ho citato prima, quello dell'Olimpia Milano, più 30 ai campioni d'Europa, ai bicampioni d'Europa nel giorno dei 78 anni. Sono due begli argomenti questi. Qui massaggi marinopidia, Insomma sai bene cosa hanno da qualche parte in casa. Io ho ancora le scarpette rosse, quelle vere, che comprai da Sandro Gamba quando negli anni 70, per arrotondare lo stipendio della Simmental, perché a quello arrivava, vendeva scarpette rosse importate di contrabbando dagli Stati Uniti. Quindi puoi immaginare, chiederai Dan Peterson di un viaggio che abbiamo fatto a Faenza assieme una volta, poi ti dirà lui perché e chi voleva incontrare quel giorno della nazionale femminile, ma credo che non ti lo dirà mai. Insomma, sono molto legato a questa squadra, a questa società, ho molto sofferto per lei negli ultimi anni, stimo molto i suoi dirigenti, voglio bene a Giorgio Armani che ha fatto una cosa nobilissima e come forse sai in un mio ruolo precedente mi sono battuto perché questa squadra potesse tornare in un Pallalido riedificato. Sì. Non voglio dire che se non vince lo scudetto quest'anno non lo vince più, perché immagino che tutte le mani corrono nelle condizioni più nobili del corpo maschile, però guarda, è giusto per la pallacanestro italiana che lo scudetto senta di nuovo il profumo di Milano, se non altro per l'impegno economico che questi dirigenti hanno profuso. Non lasciamoci imbrogliare da un più 30, perché sappiamo che la squadra è volubile, però insomma prendiamolo come un buon segno, come una stella cometa importante e significativa. Di Cassani cosa mi dici? Cassani ti dico che hanno fatto mio fratello commissario tecnico della nazionale di ciclismo. Non ti sto a raccontare la sua storia e quando io lo scelsi come opinionista seconda voce del ciclismo in Rai, perché è una storia ai confini dell'incredibile, però sono molto felice, molto fiero di averlo fatto e sono felice che in questo momento ci sia la persona giustissima al posto giusto. Davide aveva tanti sogni, uno l'ha realizzato prendendo il microfono in mano, l'altro, che forse non aveva neanche, tanto era grande, era di salire su un'ammiraglia. Certamente il materiale umano che ha è quello che è, però su Nibali si può lavorare, su Mosè si può lavorare, su Ulisse si può lavorare, si possono fare tante cose che lui con l'entusiasmo che a 53 anni ha conservato sicuramente saprà infondere in questa squadra. Non era facile arrivare, non dico dopo Bettini, ma dopo la coppiata Martini-Ballerini. Ecco, credo che sia la persona giusta al posto giusto e poi, viva Dio, è romagnolo, no? Marino, io è inutile che spenda parole, ti dico solo pubblicamente che ti voglio bene, grazie. Che spettacolo. Anch'io a te e a tutti gli amici di Radio 24. Ciao Carlo, ciao. Ciao Marino. Ciao. Piero. L'ho salutato, no, è spettacolare. Spettacolare. Avrei continuato fino alle 15:20 e poi anche dopo a fare del jazz con soundcheck e telefono. Esatto. Antonio, provincia di Venezia, buongiorno. Buon anno. Niente, io sono un tifoso della Roma, già un po' di volte che la chiamo, è un piacere sempre parlare con lei e volevo fare due considerazioni. La prima, mi piace leggere la classifica al netto degli errori arbitrali e in questa vedo che la Roma è al primo posto. Scusi, Seconda considerazione su Juve-Roma dello scorso 5 gennaio, dico che la Juve ha fatto mezzo tiro in porta, ha fatto 3 gol e Chiellini compie un fallo preciso identico a De Rossi, subisce una ammonizione e De Rossi lo cacciano fuori. Tutto qua. Antonio, però non facciamoci prendere da queste cose. Io capisco il tifo, capisco gli occhi del tifoso, innamorati, le lenti rotte, tutto quello che vuole, però la Roma a Torino le ha prese calcisticamente, non le ha prese per colpa dell'arbitro. La classifica del campo è una classifica imperfetta, perché sì, è ovvio che nel calcio gli episodi contano moltissimo. Però la classifica virtuale secondo me è ancora più imperfetta, perché non sappiamo, anche ammesso che Chiellini fosse stato espulso, secondo me non era da espellere, era giallo, lo dico proprio anch'io chiaramente. Condivido. Poi se vi parlate di Chievo-Juve, sicuramente Chievo-Juve c'è un fuorigioco di 5 metri, il Chievo a 2-1, siamo al 70esimo e quella partita la Juve non la vince, quindi lì il discorso può essere diverso, ma diventano, le variabili diventano 150.000 e io francamente faccio proprio fatica, faccio molta fatica e credo che ci siano delle situazioni nella storia del calcio dove appunto le situazioni sono clamorose e ci siano altre partite delle quali gli episodi sono marginali. In Juve-Roma, e l'hanno riconosciuto anche molti romanisti, gli episodi sono stati marginali. La Roma, certo, ha giocato una mezz'ora eccezionale all'inizio, non meritava di stare sotto di un gol dopo mezz'ora, ha dato la sensazione di essere la prima squadra capace veramente di poter far male sul piano del gioco alla Juve, allo Juventus Stadium, poi però gli altri 60 minuti sono stati un monologo. Io la vedo così. Ma no, ma è così. Ma allora, se io penso che la classifica del campo sia quella che gli sportivi possono leggere e guardare, la classifica virtuale io credo sia per gli extra tifosi e non so fino a che punto possa valere. Secondo me quel 3-0 forse non ha raccontato tutta la verità, però certamente non ha detto una bugia. Ci fermiamo, no, certo, per la borsa, poi c'è Francesco Provincia di Bari, 8-0-0. Bradley in uscita, Bradley in uscita a Toronto, 10 milioni mi pare. 10 milioni di dollari, 7 milioni e mezzo di euro, buon giocatore, ma ha venduto benissimo. Sabatini fenomeno. I Sabatini dell'Inter dov'è? 800240024, credo che il problema sia questo. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Tutti convocati, anche Francesco dalla provincia di Bari. 800240024 è la vostra password. Dica. Ah, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto complimenti a tutti voi. Grazie. In particolare anche a Marino Bartoletti, grandissimo giornalista che stimo da anni. Sì. Una persona schietta e sincera, e voi altrettanto. Niente, discorso di Mazzarri e dell'Inter. Io sono tifoso dell'Inter, un po' anche ho frequentato calcio, ecco, parliamo così, a livello magari semiprofessionistico. Ma perché queste persone, quando fanno i contratti a inizio anno, che presumo siano contratti, insomma, secondo me accettano tutto il fatto di andare all'Inter, poi magari non si rendono, io ho la mia idea che sono quasi tutti simili, diciamo, non c'è quello bravo, io adesso non lo sopporto più perché non fa altro che appellarsi agli arbitri, agli discorsi così, e il rigore, sì. Ma io dico, l'Inter non è la squadra scandalosa, l'Inter comunque sì, anche se non ha fatto dei grandissimi acquisti, lo sappiamo tutti, tutto quello che vogliamo, è comunque l'Inter sta dietro al Verona, dietro alla Fiorentina, tanto di cappello. Beh, il Milan sta dietro anche a molte altre ed è sempre il Milan, quindi ecco, sì, la maglia non fa punti, almeno non immediatamente. Sì, d'accordo, ma perché gli allenatori o anche i giocatori, quando non fanno risultati, la colpa è degli altri? Quando fanno qualche risultato, l'anno prossimo pretendono il doppio dell'ingaggio, il triplo, ma si devono prendere le proprie responsabilità, che sono super pagati, idolatrati e tutto, però non si assumono le responsabilità. Ma no, ma magari se le assumono anche, però Francesco, molti spesso mi accusano di avere la memoria corta, è vero, in parte soprattutto su alcune cose, tipo episodi arbitrali postumi, caduti in prescrizione, eccetera, eccetera, però io non posso dimenticare che fino a due mesi fa Mazzarri era Remida, cioè toccava certi giocatori che l'anno scorso non andavano forse neanche in tribuna, forse dovevano pagare il biglietto, non so, e quest'anno sembravano dei fenomeni. Adesso ovviamente è l'opposto di così, ci sarà anche una via di mezzo, e su queste vie di mezzo io leggo che l'Inter, secondo me, è una squadra scarsa per l'alto livello, ma l'abbiamo negli ultimi giorni non so quante volte l'abbiamo detto, Pierluigi, non mi ricordo, anche quello spesso, spesso. No, questa cosa Mazzarri ce l'ha sempre avuta e non è l'unico, va detto, non è l'unico, non mi sento di poter dire che è l'unico allenatore che si lamenta dei torti arbitrali, poi l'Inter non ha ancora avuto un benedetto calcio di rigore in tutto l'anno e qualche rigore sicuramente c'era. Magari anche ieri sera, Calvarese a proposito domenica dirige la Roma come sì, premio per la direzione. Detto questo, io credo che questa telefonata racconta, non sono Mannheimer o Piepoli, ma racconta è un buon exit poll dell'umore del popolo nerazzurro, nel senso che sicuramente l'Inter con qualche calcio di rigore poteva avere qualche punto in più, e sicuramente in certe circostanze bisogna anche lamentarsi per non passare per fessi, però qui il problema è più grande e nelle ultime giornate la situazione sta sfuggendo di mano e credo che sia evidentissimo, è una squadra che non ha fatto, ha fatto un gol negli ultimi 270 minuti e nelle ultime tre partite fra Milan, Lazio e Udinese avrà tirato in porta, non lo so, fate voi il conto, ma pochissimo, ed è un problema. In linea con quello che è in grado di costruire con un centrocampo che non ha qualità. Detto esatto. Per inciso, Antonioni l'altro giorno ci ha detto, ma questo Kovacic che mi sembra un discreto giocatorino, molto giovane, acerbo, finché volete, però è uno che sa dove andare, dove mettere la palla, è uno che ha talento, un potenziale numero 10 al di là del numero 10 effettivo che porta sulla maglietta, sta in panchina, anche questo è abbastanza misterioso in una squadra che a centrocampo è qualitativamente così fragile, così, così debole qualitativamente. A proposito di talento, allora Cassano probabilmente non va a Firenze, perché stanno cercando Matri, in compenso ha a casa una collezione di tapiri d'oro, l'ha preso anche lui. Vuoi far sentire il tapiro? Sì. Vai. Vai. Voci dell'ultimo momento dicono addirittura Cassano alla Fiorentina. Oh. Perché si è fatto male Pepito Rossi, adesso forse va alla Fiorentina, ma è vero oppure no? O diciamo, insomma, signor Cassano, tifosi. Io sono come la signora Camilla, tutta la voglio ma nessuno la piglia. No. A Prandelli che si ricordasse che Cassano esiste sempre, poi ai tifosi del Parma che, come è giusto che sia, visto che gli ho fatto un po' arrabbiare, che sto bene qua. Terzo a Garrone, il mio numero di telefono, anche se non ce l'ha, può trovarlo sempre, non si sa mai nella vita. E quattro a Balotelli. A Balotelli, continua a essere così come sei. Ma no, ma sor Cassano, fai ma non così, si fidati. Ma non si continua fa. A essere così. Vabbè, amici, finisce qua, grazie, sor Cassano. Senta, ma per la nazionale cantanti? No, dico, no, artisti TV. Però noi le diamo questo tapiro, ti riaspetto. Beh, io sono, tu hai un rapporto diverso, Pierluigi Pardo, con Antonio Cassano. Io non ho nessun rapporto personale, dico solo che a me è maledettamente simpatico. Poi cosa vuoi che ti dica? Pure a me, insomma, vabbè, dai. Beh, però dai, ce ne fossero di personaggi così al di là di tutto, Cassano, queste mi cose posso qui, dirti, ce ne fossero. Mi sembra, siccome poi io ci parlo anche in privato, mi sembra che le quattro risposte siano verissime, nel senso che, e l'ho detto dal 20 dicembre, lui a Parma sta benissimo, non bene, benissimo, con la Samp c'è un rapporto speciale, per cui evidentemente non si è nascosto, vedi, anche qui non si è nascosto, alla fine l'altro giorno... No, ma lui non si nasconde mai, Ritroverato per questa conferenza stampa per aver in fondo detto una cosa romantica, magari inopportuna, perché magari in un mondo normale un calciatore, anche se continua ad avere l'ambizione di tornare in quella che è diventata per una serie di motivi psicologici, psicanalitici, ha conosciuto Carolina lì, ha vissuto forse gli anni più belli, è diventata la sua squadra, io credo che quella situazione lì evidentemente l'abbiamo un po' pagata con quei fischi l'altro giorno, ma quella è una cosa che secondo me si risolverà al primo gol o al primo assist. No? Sempre che Donadoni lo levi dal castigo e lo rimetti. Ma sì, anche perché Donadoni, bravo allenatore, è mica fesso. No, semmai l'aspetto mediatico è che in una stagione nella quale sta facendo molto bene, e credo che insomma basti andare a Parma o contare gol e assist, sta facendo molto bene, alla fine poi vedi l'immagine che passa è sempre quella di un giocatore quantomeno inquieto. Per cui poi uno un po' distratto, che non ha visto tutte le partite del Parma, non si è messo a contare i gol e gli assist, a gennaio dice, ma come sta andando Cassano? Ah, sta facendo i soliti casini. Questo è quello che uno potrebbe pensare superficialmente, ed è un gran peccato per lui, insomma, per tutto. No, volevo dire una cosa, che il fatto che la Fiorentina stia virando su Matri è perché, come abbiamo appreso, insomma, anche su Gomez purtroppo per la Fiorentina non ci sono si parla portizie. Di febbraio per il rientro di Mario Gomez, c'è un mese in più rispetto a quello programmato. Quella è la vera grande domanda. È chiaro che se hai Pepito che torna a marzo, speriamo ovviamente, ma è difficile, è difficile, però insomma hai comunque un altro mese. Quello che hai certo oggi, in attesa del verdetto definitivo per Giuseppe Rossi, è un mese di stop per Mario Gomez, e quindi in questo momento vai sulla scelta più facile. Credo che questo sia il motivo per il quale la Fiorentina stia rilanciando su Matri o comunque su una punta fisica grossa. Che mi sembra una scelta strategica diversa rispetto a, certo, a quella che poteva essere Quagliarello, Cassano, eccetera, eccetera. Sono giocatori differenti rispetto a Matri, questo è chiaro. Marcello, Bergamo, eccolo, buongiorno. Qua. Eccolo qua, dica. Allora, saluto tutti. Saluto anch'io. Sono tifoso dell'Inter da sempre, però sono tifo contro. Tifa? Non ho capito. Io sono assolutamente contrario al tifo contro, e vi spiego meglio. Quando le squadre italiane giocano in Europa, io tifo squadra italiana. Rimango sempre e da anni deluso della Juve, e anche quest'anno è stata così. Però mi sorge una curiosità: come mai c'è così distanza fra la brillantezza in Italia e la mediocrità in Europa? Mi sembra che lei abbia una risposta, che sarebbe? No, io lo chiedo a voi. No, la domanda è tendenziosa. Vostro onore. Non è chiaramente dai. C'è una componente arbitrale. Hai visto che ce l'aveva la risposta? Hai visto che Marcello aveva la risposta, Pier? Io sono candido, pensavo non ci fosse. Ma è chiara la domanda, no, tendenziosa? Obiezione. Siano competizioni diverse. Io veramente. Ieri c'era un ascoltatore che ha chiamato e che ha detto che la Juve in Inghilterra o in Spagna sarebbe in testa alla classifica. Io non lo so se sarebbe in testa alla classifica. Certamente per la cifra tecnica, come si diceva una volta, della squadra non sarebbe molto distante. Io credo che le coppe sono un altro sport, ma le coppe, la Coppa Italia ancora di più, la Coppa Italia perdi una partita in trasferta e sei fuori. Meno male che è così. Perché non ci sono neanche 180 minuti, capito? La Champions è una competizione di 6 partite nelle quali se hai una concatenazione negativa di risultati, episodi e prestazioni, perché la Juve ha giocato male in Champions, questo non si discute, è andata molto al di sotto delle sue possibilità, puoi uscire fuori. Questa è la sostanza, secondo me. Poi la ripetitività di questa la ripetitività di questo vizio di non di forma ma di sostanza fa sorgere domande cui esistono già risposte secondo dal tifo. L'anno scorso è un'altra storia, Carlo, perché l'anno scorso la Juve è arrivata. L'anno scorso ha fatto quello che doveva l'anno scorso, cioè ha fatto un cammino. È arrivata alle quarti di finale ed è uscita col Bayern nettamente, ma è uscita meno peggio di come sarebbe uscito poi al turno successivo il Barcellona. Senti, vorrei tornare sulla storia del campionato spagnolo. Secondo te Filippo Maria Ricci come la pensa? La Juventus sarebbe in testa al campionato spagnolo? Secondo me a quest'ora qui non ha neanche cominciato a mangiare, sta ancora. Dici? Alle tapas iniziali. Allora, è vero, Filippo? Entrantes? È vero? Ha ragione, vecchio Barda. Ha ragione, sono qua, mi ha beccato col cucchiaio. Però la Juventus non sarebbe in testa alla Liga. No? Secondo sarebbe. Me no. Seconda, no, terza? Pure secondo me, sì, però nel gruppo. Sarebbe in gruppo. Diciamo, se la giocherebbe con Barcellona Atletico e Real Madrid, però in testa no. Oggi sulla Gazzetta dello Sport scrivi un sacco di cose, Sì, ho visto poco oggi. Hai scritto, lavorato come un matto ieri. E anche oggi bisogna lavorare, domani partirà. Che scrivi? Che scrivi? Domani c'è è il partito, no? Esatto, sì. Barcellona del campionato d'inverno. Atletico. 49 punti le due squadre. 16 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Miglior attacco contro miglior difesa. E niente, due allenatori argentini, per la prima volta dal 96 avremo un argentino campione d'inverno. Esattamente gli stessi numeri della Juve, 16 vittorie, un pareggio, una sconfitta, giusto? Esatto. E quindi vedi che la Juventus sarebbe lì, no? Ma se fanno, ma se nel campionato spagnolo non fanno anche sciopero, ne parliamo dopo il traffico con Filippo Maria Ricci che scrive anche questo oggi: l'inferno di Santander dall'Europa agli scioperi. Poi Filippo vi spiega questo titolo della Gazzetta. Tutti convocati. Allora, noi in Italia piangiamo in continuazione, ma questa non l'avevamo ancora vista. I giocatori del Racing, scrive Filippo Maria Ricci sulla Gazzetta, senza stipendio da mesi hanno incrociato le braccia in campo, i tifosi hanno tentato l'assalto al presidente, insomma un casino d'inferno, questa ci manca. Filippo. Sì, poveretti, questi hanno ragione. Una squadra che era in Liga 2 anni fa, è andata in seconda, poi è finita in seconda B, e niente, non hanno pagato gli stipendi di ottobre, novembre, dicembre, impiegati, peggio, 6 mesi, e l'altro giorno hanno concordato insieme, parlando con il sindacato calciatori e l'avversario, che era l'Almeria, visto che c'erano le telecamere alla Coppa del Re. Nei primi 20 secondi si sono fermati, l'Almeria ha passato al calcio all'inizio, ha passato la palla indietro, l'ha tenuta un po' lì, poi l'ha sparata fuori e poi hanno cominciato a giocare. E questa è la parte, diciamo, nobile. E poi l'assalto dei tifosi al palco ovviamente è meno nobile, però c'è da dire che questo sì, la dirigenza del Racing è veramente senza vergogna. Sì. Una cosa incredibile, una storia tristissima. Si sono fatti infinocchiare, ma non a caso, perché c'era qualcuno che ci voleva marciare, da questo presunto imprenditore indiano, Mister Ali, che non è Ali G, ma potrebbe essere, e che è arrivato lì, inseguito già da varie cause per truffa, dall'Australia a varie altre nazioni, e loro l'hanno accettato, gli hanno fatto comprare le azioni, che in realtà non ha mai pagato, e niente, la situazione, la squadra è finita così. A occhio fallisce, insomma. A occhio fallisce, ma di situazioni di questo tipo nel campionato spagnolo c'erano. Non era l'unica questa, insomma. No, rimangono tutte a covare sotto la genere perché c'è un regime anche sindacale diverso. Però mi sembra che non sia l'unica. Un regime anche fiscale, nel senso che i club spagnoli devono quasi 800 milioni al fisco. Poi anche da noi c'è stata la spalma debiti, quindi non è che siamo, diciamo, delle verginelle, però. Qui ci sono club come il Deportivo, il Saragozza, il Betis, sono tanti che hanno debiti enormi. I club valenziani si sono appoggiati alla stessa regione prendendo fondi regionali che non avrebbero mai dovuto prendere, infatti adesso c'è l'indagine della Commissione Europea e insomma, malaffare diffuso, mettiamola così. Insomma, hai sentito Pierluigi, Filippo ormai dice anche da noi, ormai è spagnolo a tutti gli effetti. Sì, sì. Non ho ancora capito se ti fa Barça o Real. No, anche da noi ci ha contribuito a importare in Spagna i nostri vizi. È una... Sì. È un infiltrato, io avrei, insomma. Fatto ripeggio, sì. È un infiltrato. Su chi tipo, quest'anno tipo Real perché c'è Ancelotti. Sì. Sì. E quindi domani ti fa per il pareggio. Ci dice qualcosa su questa dimensione letteraria dello Scolcioneros? Insomma, chi è stato al Calderon, ci andranno adesso a breve i tifosi del Milan, sanno che quello è uno stadio proprio distante anni luce dalla epopea galattica del Bernabéu. Luigi Smarto ci portassero l'ombrello. Esatto. Per tre quarti è scoperto. Tira un vento che neanche sull'Himalaya. A parte questo, c'è grande atmosfera. C'è una tangenziale sotto, ci sono alcuni ingressi allo stadio che sono praticamente sotto al cavalcavia, no? Della tangenziale. Sì, della... Esatto, sopra. Sopra, esatto. Sì, quando vai in tribuna stampa ti siedi sulla galleria, un po' come succede lì a Lansdowne Road, non so se a Dublino, che passa il treno sotto, no? Sì. È uguale, solo che passa la tangenziale. No, è stadio con fascino, cioè perché il pubblico ci crede ed è più caldo rispetto ad altre tifoserie spagnole, vedi Barcellona e Real Madrid, però lo stadio è, diciamo, vecchio, infatti hanno già deciso di andarsene, vediamo se poi ci riescono, e, insomma è un posto interessante, insomma, e poi letteratura, sì, erano considerati gli sfigati da se stessi in primis. Beh, di fatto lo successo, la classe operaia, con tutto il rispetto alla nobiltà del Real. Certo, però se qui si confronta c'è il romanzo popolare. Sì. Certo. E quindi loro, e adesso hanno cominciato anche a vincere, dopo 14 anni hanno vinto anche due volte al Bernabéu e ovviamente le cose vengono viste diversamente. Sì, ogni tanto ci abbiamo provato anche in passato, ricordiamo l'acquisto di Vieri, l'arrivo di Arrigo Sacchi, insomma, qualche volta ci provano. Hanno vinto anche il doblete. Hanno vinto il doblete. Certamente, poi Fernando Torres uscito di lì, poi Agüero, insomma, poi Forlán. Forlán è una lunga storia di abbastanza di sfighe e romanzi, no? Questa dell'Atletico Madrid, romantica. Una squadra molto romantica, sì. Senti Filippo, prima di salutarti e di lasciarti pranzare, sarà la settimana anche del pallone d'oro questa? Non dimentichiamolo. Ah, sì. Oddio, ve lo fanno ancora? Cosa? No. Che pallone d'oro? No, lo fanno così. No, dico ancora c'è quella competizione inutile. Veramente non se ne può più del pallone d'oro. Poi qua vivendo in Spagna con le due fazioni, quindi ti leggi due giornali e tutto cristiano, poi ti leggi altri due giornali e tutto messo. Ma per favore, basta. E basta, la settimana finisce, no? Lo comunque alza... lunedì finisce il calvario. Beh, lo vince Ronaldo. Lo vince Ronaldo, con buona pace di tutti, compresa la nostra, perché insomma abbiamo sponsorizzato Cristiano Ronaldo fin dall'autunno. Sì, va bene, dai. Eh? No, non va bene. Io inizialmente ero per Ribéry, poi deve essere è un duello allo che Corral tra questi due, ma è giusto che sia così. Poi ma parliamo del vero premio. Yaya Touré per la terza volta consecutiva miglior calciatore africano. Dai. Esatto. No, è vero. Ha fatto il triplete come tu. Sì. Vabbè, ma premi. Sì, va bene. Ciao Filippo, buon appetito. Ciao caro. Ciao Filippo Maria Ricci. Chi vince secondo te? Non il pallone d'oro, ma tra Barcellona e Atletico, Pier? Io penso che c'è la Barcellona, ma è una partita sì, sono d'accordo con te. È una partita meno certa, meno disequilibrata rispetto al passato. Mm-hmm. Perché comunque la continuità su 18 partite la vedi. Se dopo 18 partite sei lassù, vuol dire evidentemente che stai facendo qualcosa di incredibile, che hai una struttura e una forza per poter lottare. Poi il Ciolo sta facendo un lavoro incredibile. È proprio bravo, Simeone è veramente, cioè, guarda che ha sbagliato mai. 2 anni fa con la squadra in crisi nera e la portò a vincere l'Europa League, insomma, è stato veramente un fenomeno. Fra l'altro società modello, società che ha sfruttato l'Europa League per, lo dico a eventuali dirigenti, giocatori e allenatori di squadre italiane in corsa, ne abbiamo tante quest'anno in Europa League, ha sfruttato questa competizione in maniera incredibile, l'ha vinta, ha vinto la Supercoppa, ha messo in luce i suoi giocatori, li ha venduti benissimo e adesso insomma continua veramente nel suo processo di crescita eccezionale che c'è in giro per la Spagna. Non avrei pensato che dopo 18 giornate poteva essere così in alto in classifica. No, io neanche, ma comunque è semplicemente la conferma della sua qualità. Oggi è curioso anche leggere ad esempio su Repubblica di Sherwood, un nuovo allenatore del Tottenham, che dice: ma quali riunioni tattiche, quali video, quali schemi, ma giocate liberi, come si dice nel basket, 5 fuori. Mica male questa. Passatevi la palla e fate gol. Questo è il senso. È un po' una visione riduttiva, secondo me. No, sì, no, è un po' riduttiva, sì. È una boiata pazzesca, ma come dice Fantozzi. Sì. Tra l'altro Sherwood, che è, come sanno tutti a Londra, è un storico tifoso dell'Arsenal. Sì. E quindi farà di tutto in realtà sta chiaramente facendo il meglio del Tottenham, però in occasione del derby che c'è stato e anche di altre partite dell'Arsenal recentemente sono comparsi i primi striscioni con una sua famosa frase virgolettata nella quale ribadiva il suo amore per l'Arsenal qualche anno fa. Giorgio Firenze, buongiorno. No, Gianluca Milano. Gianluca Milano. Il parere sul Bologna. 0 su 2, 0 su 2. No, aspetta, allora non ho capito niente. Chi sta parlando adesso? Giorgio da Firenze. Giorgio da Firenze, ho detto giusto. Dica. Sì. Allora, vorrei un vostro parere sul Bologna, nel senso, è una squadra effettivamente non da Serie A, ci sono altri problemi. E poi, possibile che una città, tutto sommato florida come Bologna, non riesca ad avere una squadra, non dico da scudetto, ma insomma che tutti gli anni non debba lottare per la sopravvivenza in Serie A, mentre non so, Verona, città molto più piccola, c'ha due. Beh, Verona è passata alla Serie C, però mi sembra che le realtà siano un po' diverse. Poi il Verona è neopromossa, la dimensione di Bologna è questa, no? Il calcio è ciclico, cioè Verona ha fatto anni di Serie B, addirittura di Serie C, di Lega Pro, insomma adesso è risorta, sta facendo delle cose eccezionali, ha un pubblico caldissimo, ma è caldissimo pure il pubblico di Bologna. Non c'è sempre una correlazione precisa fra la struttura economica. Pier, ma che idea ti sei fatto della vicenda Pioli? Presentato ieri Ballardini, però questa vicenda Pioli mi sembra abbastanza misteriosa, cioè forse bisogna vivere più da vicino alla realtà bolognese, però io da qui non l'ho capita molto. Beh, era parecchio tempo che c'erano polemiche col presidente, ci fu una famosa botta e risposta prima di Bologna-Inter, quindi parliamo di novembre, e sta veramente... io non credo neanche che ci sia un grandissimo clima attorno a Ballardini da parte dei tifosi, nel senso, ma non per colpa di Ballardini, perché la piazza comunque era legata a questo allenatore che non aveva neanche fatto male. È chiaro che quando tu perdi giocatori importanti, come è successo al Bologna quest'anno senza rimpiazzarli è abbastanza complicata la situazione. Certo, ma poi per Gilardino avrebbe fatto. Ma è chiaro, ma per una squadra così un giocatore come Gilardino vuol già dire una polizza assicurativa per la salvezza, perché per salvarti devi comunque averne uno che ne mette 15 o 20 e Gilardino lo fa d'abitudine. Gianluca Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. No, volevo parlare un attimo dell'Inter, se sì. Si poteva. Il fatto, nel senso, io non... Abbiamo un minuto e mezzo, comunicazione di servizio, sì. Dica. Sì, nel senso, lamentarsi di rigori secondo me non è così inutile quando proprio non ne batti neanche uno in tutta una giornata d'andata. Anche ieri sera potevamo batterne due tranquillamente. Quindi io non darei tutta questa responsabilità. Secondo me stiamo pagando un po' il fatto del, dopo il triplete, non aver cambiato quei giocatori che hanno chiesto aumenti e poi non hanno fatto più niente. Secondo me il cuore di... Sì. di Moratti che un po' stiamo pagando, però io sono speranzoso per il futuro, sì, anche se allora, non arriveranno grandi acquisti. Io dico la considerazione numero due è quella buona, la considerazione numero uno è che il senso con i rigori non cambierebbe, quello del grande alibi. La ringrazio. Grazie a lei. Pardo? Sì, sono d'accordo. Passiamo oltre. Ciao, ci sentiamo. Ah, bene, volevo chiudere così. Va bene, sarà bellissimo. Ci sentiamo. Meraviglioso. Ci sentiamo noi lunedì, però domenica ovviamente ricordiamo che c'è la versione weekend di tutti i convocati dal 17 al 19 e tu vai avanti, io adesso ti ascolto. Sì, adesso tra poco parlo con Coach Dan Peterson perché voglio parlare di basket. Beh, va celebrato a Milano. Va celebrato il coach perché ha compiuto gli anni. Guarda caso nel giorno dell'Olimpia. Le storie dello sport sono queste. Ciao Pier. Ciao. Convocati 800 24 00 24 è il numero verde. Marco da Firenze, buongiorno. Buongiorno, volevo parlare della vittoria dell'Olimpia ieri con l'Olimpia Foss. Anch'io sì, molto volentieri, parlo un po' di basket. E l'unica cosa, posso fare una battuta? Sì, certo. Mi è sembrato un po' di vedere Moratti quando prese Ibrahimovic e Vieira dall'Inter. Sì. L'Olimpia Milano, insomma, ha soffiato un paio di giocatori. Lei è tifoso di Siena, naturalmente. Forse più di un paio negli ultimi anni. Ecco, c'è stata la diaspora da Siena a Milano. Sì, infatti. Tra l'altro, insomma, due giocatori a cui eravamo molto affezionati davvero. Anche se devo dire che poi i rimpiazzi a Siena, insomma, tutto sommato non sono male. Mettiamoci, che ne pensava lo penso anch'io, aggiungendo che oggi Siena probabilmente non può più permettersi per tanti motivi giocatori di questo tipo. Ai giocatori si può aggiungere anche serenamente l'allenatore, perché questo è. E quindi io credo che davvero quest'anno, insomma, l'ha detto prima Marino Bartoletti, tifosi dell'Olimpia toccatevi dove volete, però come può sfuggire lo scudetto? Lo sport è meraviglioso, anche perché vale la pena ricordarlo, prima l'ho citato en passant. Allora, 9 gennaio, l'Olimpia Milano e l'allenatore più importante della sua storia, insieme a, ovviamente a Rubini e Gamba, ebbene, il 9 gennaio compiono gli anni, tutti e due. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Tanti auguri, coach. Grazie, ma proprio io sono dal 9 gennaio 36, sì. 78 anni ieri. E l'Olimpia 9 gennaio 36, secondo tutte le storie, cioè, quindi tutti e due casualmente nati lo stesso giorno. Stella. Ti devo correggere su due cose. Rubini, molto più importante di me, ok, nella storia dell'Olimpia, quello che hai fatto Rubini, 15 scudetti e 8 secondi posti non sarà. Sì, ma lasciami dire quello che voglio, perché io sono cresciuto guardando numero 8 Mike D'Antoni Playmaker. Hacker, Dan sì. Peterson number one in panchina, 11 Meneghin, 15 Megaduce. Hai fatto anche bene citare Gamba, Gamba leggendario, come cioè, è stato vice allenatore lì penso 7 anni dal 65, 8 anni della prima Coppa dei Campioni di Rubini, e Gamba come giocatore ha vinto 10 scudetti sotto Rubini con Maia, Bolletti, Simmental, eccetera. Quindi due grandi nomi. Senti coach, intanto 30 candeline infilate nella torta dell'Olympiacos, bicampione d'Europa, mi viene da dirne un'altra grossa, una partita che può essere simile a quella famosa con l'Aris Salonico, anche se il valore è diverso eccetera eccetera, però come impatto emotivo è una cosa che non vedevamo da, che a Milano non si vedeva da tantissimi anni. Anzi, forse per allora, la cosa dell'Aris, bisogna dire, non era contro la squadra campione d'Europa due volte in fila con l'Olympiacos, meglio quello che fate ragazzi ieri, c'ero a Lio fra l'altro a vederli, hanno asfaltati, cioè difesa asfissiante, la presenza di Hackett e Moss, difesa terrificante, ogni palla vagante, cioè andavano due giocatori, uno dell'Armani, uno dell'Olympiacos, quello dell'Armani ha resistito l'urto del contatto, ha preso la palla e andata via. Tra l'altro Hackett non so quanti falli ha subito ieri sera, diciamo 5-6 sulle statistiche, ne ha preso 56 falli subiti, fischiati 6, hai capito? Cioè, li hanno picchiati e lui non ha fatto una mossa, cioè proprio non puoi picchiare lui, non li sente neanche, come anche quando c'era Gentile che non c'era ieri sera. Sono talmente forti fisicamente, esatto. Sono come due giocatori della NFL, sì, che hanno letteralmente stritolati. No, ma questa Olimpia ha la taglia da Eurolega poi aggiungo ha finalmente un playmaker, cioè a certe volte è semplice. Ti ricordi l'asse playmaker pivot? Da quanto tempo l'Olimpia Milano non aveva questo asse? Io non ricordo l'ultimo playmaker vero che c'è stato a Milano, mi viene in mente Sasha Georgievic quando ha chiuso perdendo lo scudetto con la Fortitudo, forse l'ultimo grande playmaker è stato quello. Georgievic era uno dei primi playmaker moderni, cioè minacciosi anche in attacco, Georgievic è pericolosissimo in attacco. Tornando alla partita ieri sera, c'era fatto una cosa storica, okay? C'è la nostra fase di qualificazione, non in questo girone qua. L'unica cosa che ha dato dramma a nostra era meno 31, hai capito? Perché ieri sera, io stavo tornando in macchina con il mio manager ieri sera, ho detto, non mi ricordo una partita giocata dall'Olimpia di questo tag. Ok, magari andiamo a vedere la finale di Coppa dei Campioni, una cosa così, ma 30 punti alla squadra due volte campione d'Europa non c'è nella storia, okay? Cioè, quindi è stata un'impresa antologia ieri sera, veramente difesa, attacco, e hai detto tu, Hackett che fa regista, e fra l'altro ieri sera, non in quintetto base, Gerald ha giocato bene, cioè, il suo ruolo è questo, probabilmente venire alla panchina, giocatore di impatto, questo è lui, il panchinaro, certo. E Lowell non è un giocatore tecnico, che sia chiaro, un po' due o tre passaggi di uscita da d'infarto ieri sera, un paio di palle perse ieri sera, un paio di cose, però lui ha cacciato in faccia a loro 4 o 5 stoppate da far porci, cioè, loro hanno detto ups, non possiamo, lasciamo perdere andare a canestro, lasciamo perdere l'area di 3 secondi, cioè, gli ha tolto ogni piacere, l'hanno avuto due o tre entrate per terzo tempo, layup come si dice, faccia, ping, e anche Melli ha cacciato un paio. Quindi veramente una prestazione fisica, atletica, tecnica, difensiva, ieri sera, impressionante. Cosa che non deve però illudere nessuno, perché la storia recente di Milano, nella storia recente di Milano ci sono anche partite comunque di livello, partite che, come dire, aprono le nuvole e poi partite in cui magari quelle immediatamente successive in cui le nuvole si richiudono. Non ricordo quello che hai detto la settimana scorsa. Tu non c'eri, tu vai in vacanza, non fai niente e poi torni. Giovanni, abbiamo letto la cosa per 2 settimane, 3 settimane. Noi comunque, bentornato. Grazie coach, grazie. Happy New Year. Alle Maldive sei andato, no? Sì, ho fatto il giro del mondo in 80 giorni. Sì. Ma dico che adesso Milano, come ho detto la settimana scorsa, in crescita, perché ci voleva un attimo nuovo allenatore, nuovi giocatori, nuovi innesto di Hackett, infortuni a Gigli e Cancro, cioè tutto. La partita di Sassari la settimana scorsa è stata determinante. Questo ha detto, abbiamo perso ad Atene, torniamo e vinciamo a Sassari. Aia, occhio, adesso la squadra è seria. Comunque sarà interessante per il campionato italiano. In Eurolega sarà una storia bella. All'Olimpia non si chiede la luna in Eurolega, ma mi sembra una squadra attrezzata, ripeto, soprattutto dal punto di vista fisico, perché ha la stazza e la taglia da Eurolega. Però in campionato sarà interessante vedere nel nostro stagno la corazzata e tutte le altre, che comunque sono qualcosa di serio, perché Brindisi, Sassari, Bologna, Roma, Cantù, sono tutti dei guastatori che potranno dare l'assalto come i pirati. Alla grande, io ho sempre detto, cioè, quando io allenavo negli anni 80, dice, preferisco giocare in trasferta a Cantù, difficilissimo, che a Varese, difficilissimo, a Bologna, a Pesaro, la partita più difficile, perché so che la squadra ci sarà. Sono le altre partite che i tifosi dicono, ah sì, quello lì è facile. Teramo non c'è più, però vi dico, le partite come Teramo una volta, quelle lì, sono da temere. Ma tu hai citato i vari Roma, Cantù e compagnia, ma anche gli altri bisogna prestare attenzione, e quando tu sei nella situazione in cui si trova l'Armani adesso, deve prestare attenzione a tutti. Questo sarà, e come dice Luca Banchi spesso, continuità, cioè vuol dire essere all'altezza di ogni partita. Lui vuole questo, e parole sacrosante. Sì, tra l'altro, nella notte del compleanno tuo dell'Olimpia, del trentello rifilato all'Olympiacos, c'è Bargnani che batte LeBron James al Madison Square Garden, 102-92, 19 punti, 5 rimbalzi, una stoppata per il mago, ma soprattutto i Knicks, che sembravano, che erano un disastro totale, no? Morti e sepolti, no? Battono i campioni in carica, battono LeBron James 4 su 5, e tutta l'America parla di una schiacciata rovesciata di Bargnani in faccia a tutti, e poi dopo LeBron ha fatto uno lì e l'hanno scritto 1-1 schiacciate rovesciate, uno per Bargnani, ha detto il lungo italiano le chiamavo, okay, e uno per LeBron James, quindi tutti si divertono per Bargnani di questa schiacciata rovesciata magistrale. Sì, è vero. Comunque, altri temi, New York era la città della grande depressione sportiva, ecco, ce ne abbiamo parlato, ma baseball, football, i Knicks, i Brooklyn Nets, tutti disastrosi, adesso dai Knicks e dai Nets tutto sommato qualche scintilla di vita sta uscendo, segno di vita. E poi quella divisione atlantica è sempre aperta, Boston sta perdendo, non si sa mai, e coach Mike Woodson ha detto vogliamo vincere la divisione, chissà se non lo fa. Poi io sono ipercritico di Knicks, ma complimenti a loro, 4 su 5 hanno battuto Miami, non ho niente da dire. Sì, per chiudere, cosa voglio tornare in Europa e all'Eurolega. Abbiamo detto Milano, a Milano non si chiede lo scudetto, perché sarebbe bugiardo dire diversamente, a Milano si chiede lo scudetto, perché se non vince quest'anno è uno dei più grandi fallimenti della storia del basket italiano, forse. In Eurolega cosa si chiede a Milano, secondo te? Cosa si può ragionevolmente chiedere a Milano? Adesso le ho dato il segnale. Io voglio studiare queste prossime partite. Avviene Sergio Scariolo qui la prossima partita, venerdì, una settimana da oggi, okay? Con Kaya Laboral, come si chiama adesso, cioè, e stanno vincendo le partite, sono in questa fase qui, hanno battuto Barcellona, quindi sarà molto interessante quelle partite. E poi verrà Fenerbahce con Obradovic, eccetera, quindi ci saranno le prove. Però adesso Milano probabilmente ha preso da questa partita la autoconvinzione che loro possono giocare contro e con chiunque, e questa è la chiave di tutto. E un'altra chiave, ti ricordo, dico sottovoce, ti ricordi dove sono le Final Four di Eurolega quest'anno? Io vengo in studio lì adesso una volta, cosa ho detto io? Tu ricordi, io dimentico, cosa ho detto io? Final Four di Eurolega quest'anno sono a? A Milano, questo è sicuro, però mi ha chiesto il pronostico qualche tempo fa, avevo detto Real Madrid, CSKA, eccetera, e ha detto Real Madrid, CSKA sicuro, e penso Fenerbahce, però Fenerbahce ha perso ieri, sai, quindi bisogna prestare attenzione. Insomma, sarà interessante vivere le prossime partite di Eurolega. Esatto, e Milano avrà il suo da dire, ovviamente. Noi possiamo chiacchierare qui come giornalisti e tifosi sulla radio, e sono loro che vanno in campo e devono prestare massima attenzione, ma diciamo che adesso, con l'aggiunta di Daniel Hacker e questa prestazione di ieri sera, hanno le loro belle possibilità di fare qualcosa. Fra dire e fare c'è sempre il mare. C'è sempre il mare, che però da Milano non si vede. Grazie coach, ti abbraccio, ti faccio ancora gli auguri. Ciao. Grazie coach Dan Peterson, grazie a tutti voi. Giovanni Capuano, domenica dalle 5 alle 7, ci saremo anche io e Pardo, ovviamente a dare fastidio. Franco Piantini, autore di questo programma, Gianmarco Ferronato in regia, ciao, a lunedì.